stato di guerra naturale, chiamiamolo così. CQ10. Avanti CQ10. Buonasera. Buonasera Natalinos. Hello, hello. Hello, hello. Come sta facendo? Va bene? Sta facendo bene. E tutto? La giornata si è ripristinata, domani forse fa bello così. Così si spera. E cosa ti fa male, Gianfranco? Sei tutto ui ui. No, non futuro settare un apparecchietto che sta fa. Che sta parlando da qualche noia, ma si è ripristinato, meno male. Anche perché è nuovo. Come diceva, che noia, che barba, che noia. La moglie di Vianello lo diceva. La buon'anima. Su non c'è nessuno, sono tutti spariti, hanno buttato una bomba alle veste e non sente niente. Tutti spariti. Ma... è così. Ieri c'era anche pure casino, hanno fatto un casino che a 4 ore bastavano in 40 metri. Non so se sei in ascolto, se sta ascoltando, ma cosa vergognosa veramente. No, non ho ascoltato la verità. C'erano i russi facendo propaganda su più di una frequenza. Con anche col lineare attaccato erano tutti scandalizzati. Gesù, che vergogna. Addirittura a fare una cosa del genere non va bene. No, stanno diventando tutti matti veramente, a posto di stare tranquilli a Maronino, ci sono questi fanatici in giro proprio dappertutto, veramente non c'è contesto umano in cui non entri questa guerra, ma soprattutto non entrino gli imbecilli. No, non c'è da dare affidamento oramai a nessuno, perché stiamo proprio andando verso il baratro. E non si sa più dove andremo a finire di questo passo. Adesso domani c'è da aspettarsi il macello, perché è 9. Secondo nipotino. Il fatidico 9, dove c'è la parata lì. Sì. Infatti chissà cosa combina, speriamo che mandoci che farà la guerra a tutte le pseudo democrazie occidentali e questa fesseria qua. C'è proprio veramente da mettersi le mani in testa. Intanto un elicottero ha violato il confine per 10 km della Finlandia. Perché stanno provocando, non li hanno buttato giù. No, che se no gli fa guerra quello alla Finlandia. Se ci sono già i carri armati lì, solo perché vuole entrare nella NATO, figurati. Però c'è stata già la protesta della capitale. Di 10 km ha superato il confine questo elicottero militare russo. Facendo i prepotenti quando non se lo possono permettere. E stiamo attenti che quello è un gioco pericoloso. E infatti, perché poi quando non ne possono più gli saltano addosso tutti insieme. È quello che vuole lui, no? Così almeno dice, colpa degli altri che mi hanno attaccato. L'altra cosa che è già successa. Per carità. Boh. poi qua stanno a fare tante polemiche su tutto, mamma mia, siamo un paese di gente polemica, a posto di essere uniti nel bisogno, sono tutti che qua mettiamo di opinioni anche dei passerotti che volano fra poco. Tutti le dicono devono dire la sua, ballerini, direttore d'orchestra, gente che non c'entra niente, che non sa cosa fare la mattina alla sera, mamma mia. Non ho stress, tutti i giorni, prima con Covid, adesso si stanno attaccando alla guerra, domani chissà diranno che non è vero niente, che il clima sta peggiorando, nonostante che si stiano ghiacciando anche le chiappe, insomma, veramente se la stanno cercando. E allora, poi non ne devono fare polemiche tutte queste trasmissioni TV, che ne dicono di tutti i colori, ma adesso il Covid non interessa più a nessuno. Si occupassero del Covid invece di, che ancora non ne siamo usciti, invece dei cavoli degli altri. Infatti, poi tutta propaganda, notizie vere e false, fede vere e false, non si capisce più niente. Adesso stanno andando alla caccia a quelle stoffanti imbecilli, veramente, quella banda, l'hai sentita? Che stanno inneggiando alle Brigate Rosse, ma ancora non sanno neanche chi sono, è come quando si parla di fascismo, la gente non l'ha conosciuto, sono veramente degli imbecilli, è stata una grande tragedia per l'Italia e questi inneggiano la tragedia, ma veramente c'è da rimanere allibiti i personaggi che circolano. Infatti, perché siamo nel 2022 e ci possono essere ancora persone del genere, invece per stare ognuno a casa sua, alla pace, non alle Brigate Rosse. C'è anche propagazione sotto. Questi non hanno, erano chissà in quale buco. Parlano di Brigate Rosse che non ne hanno vissute. Io ricordo la ragazza quando sono rientrato in caserma, mi sono trovato una mitragliatrice da campo fuori dalla porta e mi hanno detto con i sacchi di sabbia pure, perché era il periodo in cui stava una granella della caserma. Io ne ho visto gente piangendo perché aveva visto che avevano sparato lì a Roma dei carabinieri, per carità, cioè quelli vogliono prendersi e fatti fare dallo stivalo fino alle Alpi a calci nel sedere, veramente, finché non si possono neanche riposare. Guarda, sono degli animali. Secondo me non sono di testa, sono dei deficienti. Barbara, 40 anni. Mi ricordo che avevano fatto che avevano ucciso anche la fermata di Trump, per sbaglio, volutamente, insomma, ricordo anche un ragazzino. Poi alle spalle sempre, no? Come fanno proprio i più miserabili. In qualunque altro paese sarebbero ancora dentro con carcere a vita quelli lì, ammesso che ne sia rimasto qualcuno vivo. In America dovevano essere, quelli danno gli anni di carcere come le caramelle, 60 anni, così. E non esci. No, infatti, se sono dei traditori, tradiscono il proprio paese, fanno terrorismo, ammazzando anche la povera gente, quanti operai, quanta gente che hanno per carità, guarda, che tempi, ci hanno fatto passare una giovinezza veramente in stato di guerra. Figurati, io avevo dei parenti a Roma, hanno perquisito tutta Roma, casa per casa, una cosa, guarda, da paura. Sì, me lo posso immaginare, che è Pippina, boh. È vero? Qui? Ma, vabbè, anche questi escono a pizza, guarda, tutti tra fake news, cose su Facebook, su questo impiastro di social, cretinate da mettersi le mani in testa, prima col Covid, adesso con questa guerra, e poi per di più te li trovi anche via radio, non... veramente stanno rompendo le scatole a 360 gradi, ma è questa la gente che dovrebbe combattere contro i cambiamenti climatici, la solidarietà contro la gente che è più povera. C'ha ragione il Papa, me lo dico io. Buona tarde, scompagnero, provate un controllo di radio. C'è stata una chiamata, chi è avanti? Ho detto buonasera, ma provate un controllo di radio. Io avevo togliere lo squelch perché se no non sento una mazza, tutto spezzettato, vediamo se ci riesco ora. Natalia, tu hai sentito qualcosa? Carlo di Porto Torre, già stai uscendo bene. Carlo, stai andando bene, radio, non c'è problema. Carlo di Porto Torre, se cazzo mai sei, dice di te due. Ah, mi. Claudio volevo dire. Claudio. Adesso ti ho sentito bene. Dai, però già è abbastanza chiaro, non c'è problema. Ciao Gianfranco, ciao Natalino. Scusate l'intromissione, non a gamba tesa, a gambe, tutti e due tese. Vai Gianfranco. Ma cioè sto uscendo, buonasera a tutti, Claudio Sparviero qua. Volevo cominciare a fare danno. Avete parlato in 7. Mi sentite sì o no? Mi cerco un controllo di radio, per favore. Grazie. Ehi, 9-10 radio, però non è la tua, la solita radio tua, amica. Per quello non ti avevo conosciuto. Cosa c'entra? Se c'è il bip in alta riga, è chiaro che non sto usando il capo, sto usando il Galaxy, sto cercando di capire che microfono lasciarci, per no, sto andando col microfono normale. Volevo capire se è affidabile, se va bene, se no niente, la spengo, me la frutti nuda. È giusto per fare qualcosa. Ciao anche a Giulio, buonasera. Ciao Claudio, te l'ho detto, la radio è cupa, non è buona perché è chiara, non c'è problema, però è una radio molto cupa, niente di più, ma abbastanza chiara. Ciao Gianfra, ciao Natalino, avanti. Ciao Giulio, sembri Carlo di Porto Torres, tanto per darti un'idea, adesso ti faccio venire avanti Gianfranco, vai avanti per Claudio. Ciao Claudio, ciao anche Giulio, buonasera. Io ho apparato Lincoln 2, devo togliere lo squelch perché sennò lo sento tutto strappato, non è la sua la radio che andava bene, quindi non so se dipende da me, perché questo coso lo fa con due o tre persone, solo questo problema. O se, ripeto, l'apparecchio nuovo, però in conduo President, niente, per me non c'è qualcosa che non va. Comunque riprendi Claudio, è per quello che non ti ascoltavo, perché mi arrivavi a pizzi. Vabbè, vuol dire sta radio non serve, bisogna volete vedere, va bene. Stavo innescando di brutto, Sì, non è un problema, è sempre roba di microfono, sto cercando di verificare un microfono, va bene. Continuate. Giulio, tu mi senti adesso? Ti ho sentito sempre, dal primissimo momento, per cui infatti ti avevo risposto, non so se tu mi avevi ascoltato. La radio però è abbastanza chiara, è molto comprensibile, non trovo nessun difetto, diciamo così, importante. è abbastanza percepibile, per cui va bene così per me. Io sto trasportando con un barattinetto da 4 soldi e tra l'altro con un watt solamente di potenza, per cui va bene. Va bene, non so cosa dirti qua. No, questo non è microfono da palmo, questo è un MBP5, stavo cercando di capire se andava bene o meno, dai. Vabbè, metto il microfono su al normale allora, avanti Natalino. Dica, fatto una strada che porta... E che volete dica, avanti Gianfranco. Calma. Comunque c'è sempre l'innesco fisso adesso, è così. Riprendi Giulio, dai, mi ha ascoltato. Un po' bassino però perché si sta levando la propagazione, tanto per cambiare. Ok, già riprendo io, ma forse c'è qualche altro che vuole entrare, perché mentre parlavi c'è stato un aggancio di portante, ma non lo so, forse non ti ha sentito. Va bene, dai, io non so cosa dirti. La radio per me va bene, perché va bene, certo non è la tua, la solita, però va bene, è forte, è comprensibilissima, chiaramente non, da un microfono da palmo o meglio da un MP5, così regolato l'hai però, perché in un primo momento era ancora più cupo, l'ultimo passaggio che hai fatto l'hai abbastanza regolato molto meglio di come quando sei entrato, tutto io qua. Vabbè, questo è il microfono normale da palmo, ditemi se va bene questo, se no la spengo e la rimetto dentro l'armadio, perché microfoni altri. Claudio, ti rispondo io, adesso va bene, nessun innesco e riesco a sentirti anche con lo squelch inserito. Quindi questa la radio è normale, il suo microfono originale del Galaxy, va bene così. Vediamo a lunga distanza, poi riprendi tu Natalino. Come va da te Giulio? Mi senti bene? Sì, ti sento bene, io ti sento bene, sempre, ti ho sentito bene in tutti i passaggi che hai fatto dal primo momento. Per cui non ho niente da dire. Mi stai dicendo che ho un microfono normale, come quello che sto usando io in questo momento, anch'io ho un microfonino normale, per cui va bene, io non so cosa dirti, per me va bene, insomma, ecco. La radio è buona, 5, forte, non ho niente di particolare, indipendentemente dal fatto che non è una radio amplificata, perché giustamente stai usando il microfono che stai usando, per cui va bene così. Vai Natali. Sì, cappa giù, però sei troppo basso con quel microfono normale. Ma che razza d'apparati avete? Troppo basso. Boh. Ehi, Giulio è basso di radio, non è la solita radio sua, capito? Da microfono normale proprio. E non sentite neanche che con l'altro avrà un forte innesco, neanche quello sentite. Sta dicendo a Giulio Gianfranco, sta dicendo a me. Gianfranco, hai copiato? Natalino stava parlando del mio microfono, non di quello di Claudio. Ah, sì, allora sì. Però ogni tanto, anche come segnale Giulio, ogni tanto arriva una sventagliata di propagazione, sei proprio pelo pelo. Vabbè, sto usando un watt, per cui se faccio così, guarda, se faccio così, così mi sento sicuramente meglio, ma così non è più uno, ma saranno 10, 8, 10, 7, non lo so, di preciso, così va meglio senz'altro. Guardando il segnale a me sembra lo stesso, poi è così. Claudio, allora, tutto bene, tutto a posto, tutto in ordine? Tutto bene, tutto a posto, tutto in ordine, va bene. Dai, continuo a fare qua, se mi confermate che va bene, anche da te Natalino, la modulazione è chiara, non mi interessa che sia amplificata, che sia chissà che cosa. L'importante è che mi sentite, i watt ci sono tutti, la radio sta funzionando bene, mi interessava quello, tutto qua. Mi ascolti bene? Yes, io ti ascolto benissimo adesso. Perfetto, ultima cosa per Giulio, il segnale c'è Giulio, ti arrivo bene anche di segnale? Sì, io ho uno strumento a LED, e lo posso valutare. bussare intorno al 9-8-9-10, per cui non so quanto possa essere affidabile, però ti sto dicendo quello che leggo sullo strumento a legge. Adesso credo di aver migliorato un tantino la radio, io non molto, ma un tantino l'ho migliorata. Vai Claudio. Va bene, d'accordo, beh. Ci sentiamo dopo, continuate il vostro question, grazie per il controllo, così verifico questo microfono. Ciao, a dopo, avanti Gianfranco. Ok, a dopo. Giulio, ma come mai stai usando questi, presumo, apparecchi vintage? Vabbè, così. Tanto non è il caso di usare niente di particolare, visto e considerato che mi sento anche in qualche paese, come Porto Torres, come Muros, per cui anche per Sassari va bene, magari oggi c'è un po' di propagazione e sarà anche per quello che non sarò molto forte di radio, però visto e considerato che mi rispondete vuol dire che già mi ascoltate ugualmente. Vai Nathalie. E infatti è pure per la propagazione. È una violenza psicologica bruttissima. Io ero abituato a sentirti. Starò sbagliando, starò leggera. In ben altre condizioni, diciamo così. Ma se tu vuoi uscire con un vate, col microfono normale, di bellissimo di farlo. Ok, sì, lo sai, no, cosa sto usando, Natalia, lo sai. Mi sembra che ti ho mandato anche la foto, per cui sai benissimo cosa sto usando, niente di eccezionale, e per cui va bene lo stesso, dai. Sassari va più che bene per conto mio, poi mi ascolteranno un po' basso, però interessante che mi capiscano quello che dico, non è che io pretese di segnaloni o di radio spaccolicchia, non mi interessa. Vai Giafra. Sì Giulio, ok, sì, la regola comunque la tua è comprensibile, tranquilla, non è forte ma è comprensibile, e niente, speriamo che migliori un pochino il tempo, così almeno si può riuscire a passeggiare, a sventiare un po' con qualche altro. Almeno sventiamo Gianfranco. Saremo avvantaggiati un po' tutti quanti, così almeno possiamo anche uscire e fare quattro chiacchiere con le persone che incontreremo per strada o nei vari posti, per cui va bene così. Comunque, adesso siamo a casa e godiamoci questa mezz'oretta così di magari di radio, se è possibile poterla fare. Vai Natalie. E questa bella è la radio. Per me va bene, poi per gli altri non lo so, per me va bene. Io ho la ricezione, se no tu lo sai Natalie, oltre alla trasmissione anche la ricezione, è sempre subordinata a quel tipo di apparecchiatura che sto usando, no? Finché tieni il televisore spento, perché poco fa si sentiva più il televisore che la tua voce, Natalie. E allora questa va meglio, la radio. No, questo è l'altro, è là. Questo è l'altro. Così faccio lavorare anche questo, se no dopo a tenerlo sempre spento. Perché c'è un'antenna solo. O uso uno o uso l'altro. Papantina, forse qualcuno voleva entrare. Niente, ci ho ripensato. Evidentemente sì, ci ha ripensato. E cosa vogliamo fare? Avanti Giulietto. Ok, vabbè, c'era qualcuno da fuori. Forse qualche colpo di propagazione. E c'è stato un attimo di lampeggio di portante, diciamo, in quanto a segnale, non di portante messo apposta, no, in quanto a segnale. Evidentemente è qualche segnale che è arrivato un po' da fuori, da lontano, almeno suppongo. Io non è che ho molta possibilità di verificare al 100%, qua perché ripeto, ho lo strumento a LED e lo sapete benissimo, qua i LED vanno a conto suo, basta che ci sia un po' di QRM, vanno a conto suo, per cui va bene così, io trasmetto quello che leggo, niente di più. Vai Gianfranco. sì, c'è sempre sotto qualcosa, ma vediamo un po', io mi sto accendendo anche qualcosa d'altro, già che ci sono, vediamo cosa succede anche dalle altre parti. Ormai siamo ridotti a queste situazioni, per cui non è un problema, Natali. Facciamo quello che possiamo fare quando ne abbiamo voglia, mi sa che la voglia manca un po' per tutti, non solamente per me, ma andiamo avanti finché è possibile. Quando non è possibile, pazienza, o meglio, quando ci saremo stancati definitivamente, metteremo tutti dentro un cassetto, metteremo tutto dentro un cassetto e ciccia, e non se ne parla più. Vai Natali. Infatti, ormai siamo vecchietti anche e quindi passa anche la voglia, diciamo così. Infatti è così, non c'è armonia, vabbè, comunque quando è possibile 10 minuti li possiamo anche trascorrere sempre attaccati a questo microfono. Dopo 50 anni di attività così cibistica, si può immaginare se uno può avere l'entusiasmo di quando era ragazzo, ma nella maniera più assoluta. Ho superato i 50 anni e qualche mese di frequenza, per cui va bene così. Sono soddisfatto di quello che ho dato, poi quello che c'è da dare non mi interessa più di tanto. Avanti Giafra. No, a me la passione è rimasta intatta, come il primo giorno, se no non state sempre attaccato, un po' qua, un po' là, un po' giù, un po' su, la passione manuale c'è sempre. Questa ha anche altre passioni, perché la radio è solo una delle tante, anzi prima ne avevo anche di più, però poi quelle lì, diciamo, ci ho dovuto rinunciare e quindi mi tengo a quelle che ho. L'importante è divertirsi. Avanti Natale. Di nuovo per davanti, come va adesso? Mi dite se è tutto regolare. Parlaci un po' di più. Voglio vedere se senti innesti, se senti qualcosa, se la radio è buona, è chiara, affidabile. Com'è? Adesso è la tua. Per me va bene. Natali? Per me è la sua la radio, questa. Vabbè, la mia, nel senso che non è il capo, questo è il Galaxy Cotone P3, nel MB5 fischia, vabbè. Giulio, ultimo, perdonatemi se vi ho disturbato, io non è che sono abituato molto a rompere le palle, però avevo necessità di capire quale microfono inserire a questa radio. Giulio, da te va bene adesso? Sì, va benissimo, non c'è problema. Adesso è addirittura più forte, come non lo posso fare, per cui non c'è problema. Intendo come volume più forte, è più alta, insomma, la modulazione rispetto a prima, però anche prima era soddisfacente, almeno per i miei gusti e per la mia recensione che mi ha detto Claudio, vai. C'è sempre il tuo carissimo amico che non ti molla, cazzo, ogni volta che entri c'è sempre il tuo carissimo amico, cazzo, che ti mette la portante, per carità, guarda, che schifo, veramente. Poi si parla di radio, di fare radio, ma quale radio volete fare? Ma quale radio? Per carità, va bene. Grazie per i controlli, signori, cambio per Gianfranco e vi lascio al vostro questio, ciao a tutti. Infatti, lo sentito anch'io. È l'unica cosa che non manca mai, è proprio vero. Riprendi Natalia. No, proprio io è mancato perché è mancato anche lui, però poi è tornato, ha capito? E non capisco il perché ce l'abbia con Giulio, vabbè, pare ne ha già bugato l'occhi. Noi ci sentiamo, ma queste cose poco mi piacciono. Ciao ragazzi. Lo si deve aver dato brecco e ripidare a Zuzulu, questo bastardo, ma non me ne frega niente, comunque non ce l'ha solo con me, ce l'ha con tutti, hai visto quella registrazione che ti ho mandato ieri Claudio, la portante ce l'ha per tutti, anche per te, non solamente per me, anche per te, e dunque se ce c'era Gianfranco e c'era Carlo e c'era altre persone, da portarcela per tutti, basta che tu ti ascolti bene la registrazione che ti ho mandato, da portarla, portarcela per tutti. Vai Gianfranco. Sì, capirai, guarda quanto ci fa dispiacere, ci mettiamo anche a piangere quando fanno questi dispetti. Oi, cura Eddo, povero chi è come lui. Riprendi Natale. Io sono commosso, me ne stanno scendendo anche le lacrime. Avanti Giovanni, tu sì? Positivo, buonasera a tutti. Agli sedi pignieri, cos'è successo? Ha già steso avanti, è steso a Natalino. Il saluto, che me ne stanno scendendo le lacrime, che è successo? Ciao Giovanni, ti ho sentito sopra Gianfranco, ti ho sentito. No, stavo parlando che c'è sempre un deficiente ogni tanto per solo gli occhi schiaccia la portante, niente di particolare. No, tanto per precisare, Claudio, te lo ripeto ancora una volta, ascoltati quella registrazione, vedrai che c'è la portante anche per te e anche per gli altri che eravate tutti in questo quel giorno. Avanti ancora già, Giovanni. C'è qualcuno che accende la portante e non parla, così ho capito bene. Così sembra, cosa vuoi fare? Lasciamolo fare. Se non vuoi essere appresi, non manco gli spirali, non vuoi essere Giusuro, questo è un bastardo. Avanti, Natali. Giulio, cazzi, ti ne ha fuzzizzini. Io sono commosso, anche le lacrime me ne stavano scendendo. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi dire un elemento del genere? Cosa gli vuoi dire un elemento del genere? Trattarlo bene? Lascialo fare. Che non può essere appesi, non si sa chi è questo deficiente, però è deficiente e deficiente rimane per tutta la vita. Vai Gianfranco. Ehi Giulio, in ospedale già non riescono a riparare i sincari, figurati i guasti, quelli li buttano subito via. Mi devo assentare un attimo che mi hanno chiamato, riprendi Natale. Gianfranco si è dovuto assentare. Già lo sappiamo chi è, però noi siccome siamo persone serie, persone educate, non facciamo nomi, per cui ma già lo sappiamo chi è, d'altronde così vuole fare, contiene pure che l'unica soddisfazione della sua vita sia quella di mettere la portata, non dico altro. Vai Giovanni. L'avrei sputtanato e comunque non vedo perché dargli tutto questo peso a uno così, che può cantare. Se vuole parlare parla, se non vuole parlare che consiglia di andare. Lascia perdere Giovanni, io non è lusino, vabbè, comunque a me poco mi interessa, quando buono è abbottante laggiù altro così vai, fiuto che mi sembra a un macchino giù. Ciao ragazzi, grazie dei controlli. Allora chiudo qua, intanto il microfono che va bene è questo, l'MB by il Pane più 3B. Va bene, ci sentiamo, buon fine domenica a tutti, ciao. Ciao Cla, buon proseguo alle prossime. Ok, ciao Cla, ci sentiamo allora alle prossime, dai. Messo in disturbo per i controlli, ci mancherebbe. Avanti Gianfranco. Gianfranco si è sentato che l'hanno chiamato Giulio. Volevo salutare anche a Giovanni che non l'avevo salutato prima. Avanti giù. Ok, ti ha ascoltato sicuramente. Avanti Giovanni, hai sentito Natalino che ti saluta? Ricambio il saluto per Natalino e saluto anche a Claudio. Riccardo di Sanamelli, che piacevole conversazione anche lui. Ok, vabbè dai, comunque, va bene così. Comunque la serenità non la perdo di sicuro, o Natali, il piccolo codicino in banca ce l'ho, per cui che se ne frega. Vai, dico codicino, che poi potrei dire codicione, ma comunque dico codicino. Vai Natali. Guarda il telefono giù. Va bene, adesso lo guardo. No, non lo so se è arrivato perché ho cambiato telefono i tuoi messaggi mi arrivano magari sul tablet. Va bene, dai, comunque adesso controllo. Ok, ti dirò. Riprendi Giovanni. Prima di continuare, sto uscendo bene, vero? Sì, che stai uscendo bene, Giovanni. Se no non ti avrei sentito. Grazie. E tu l'antenna, mai faccerai sopra quel tetto? Oh, e se sta sempre facendo tempo brutto, appena fa un po' di belle giornate la piazziamo questa benedetta antenna. Non posso fare né di mani né di piedi. Poi quando piove non posso neanche modulare, perché mi salgono le stazionarie a 2,5 con questa e mi va a mollo la bobina di carico. Mi entra l'acqua dentro quell'antenna e non c'è nulla da fare. Ho piazzato questa e ho fatto un disastro, in modo non tanto stato bene, la dovrò cedere anch'io e dare una passata di nastro vulcanizzato. Oh signor, e cosa ci vogliamo fare là? Cosa ci vogliamo fare? Adesso fanno belle giornate e cercherò di montarla questa cavolo di antenna. Sì, dovrei farlo, dai. Ma penso che per la prossima settimana dovrei riuscire a farlo, vai. Almeno sentirò anche più bene, perché la metto più in alto di come è messa questa, e vediamo un po' come si riceve. Dice che è più silenziosa molto di questa qui, e almeno anche quelli più bassi li dovrò sentire per forza. Oh vabbè, cosa volevo dire? Vabbè, un attimo che mi assento io, che devo fare una cosa qua. Natalia, mi ascolti? Ho detto che mi assento, che devo fare una cosa qua. Riprendo più tardi. Non avevo capito, vai pure, tranquillo. Ciao. Ciao Giovanni. Natalia, non ho potuto controllare perché nel telefono probabilmente è nell'altro numero che mi arriva, dai. Mi è arrivato, se hai mandato qualche messaggio è nell'altro numero. Va bene. Vai Giovanni. Bene, ti arrivo a te, Giovanni. Sì, io ti sento bene. Un po' cupo del radio, ma ti sento bene. Il segnale è abbastanza alto, per cui va bene così. E la radio è per via del microfono, capito? Non c'è questo microfono. Vabbè, ma comunque già è comprensibile, non c'è problema, perlomeno per me. Poi magari ho io anche qualche piccolo problema, perché sto usando una radio da 4 soldi, per cui va bene così. Mi va bene, quando mi sento e quando riesco a sentire va bene lo stesso, non c'è problema. Vai Giovanni. Ah, sta arrivando bello forte, limpido e chiaro. Bello, comprensibile. Ok, è la stessa cosa ti dico, dai. Mi sta arrivando intorno ai 9-10 più o meno di segnale, perlomeno stando a questo strumento a LED. Poi se è affidabile, questo non te lo so dire. Ti sto solamente dicendo quello che leggo sullo strumento, Giovanni. Io come strumentazione devo soltanto solo vedere lo smitter del baracchino, dai. Anch'io sto leggendo lo smitter del baracchino, però è a LED, non è a numeri e a freccia, come solitamente è. Questo è a LED, ci sono le barre, ogni barra si accende quello oltre il 9, dunque considero più o meno tra i 9,5 e i 9,10, questo è il tuo segnale. E ne ho uno così, però non mi piace, l'ho levato, ne ho uno così. Vabbè, d'altronde cosa ci vuol fare? Se è considerato che vanno bene, lo uso e non se ne parla più. E niente di più, tanto è uguale, no? Interessante sentirsi, poi il segnale poco mi interessa, non mi è mai interessato e non mi interessa mai più di tanto. Va bene così, l'alimentazione è anche bassa, non è quella sua, è a 12 volt anziché a 13,8 e va bene così. Ieri in FM ho parlato col continente. Sì, ma si parla anche qua, non c'è problema. Anche lì quest'anno ancora non è molto buona la propagazione, perlomeno non è sempre chiara. qui, poi dove sono io bisogna che sia proprio bella aperta per sentire chiaro, per sentire bene, perciò non interessa più di tanto a me, dai, ormai sono oltre 50 anni in frequenza, figurati se mi devo preoccupare di queste cose, ma assolutamente no Giovanni, quando mi sento sono contento così. Una vita ci sei, Giovanni. Niente, era soltanto perché mi è capitato, è la prima volta che mi è capitato. E tra l'altro ho parlato dalla vettura, eh. Vabbè, non è quello il problema. No, vabbè, ma era un po' di tempo questo che poi tra l'altro è un uomo grande, di età, però è piccolo di cervello, sono lì, sono quello il problema, Giovanni. Ma non se ne frega niente, sappiamo chi è, ma non facciamo nomi perché non è nemmeno giusto fare i nomi, però sappiamo con la massima certezza chi è, chi non è, cosa fa, cosa ha vissuto, che vita ha vissuto, sappiamo tutto, sappiamo, per cui è un povero diavolo, come ce ne sono tanti, ma non in frequenza, in frequenza mi sa che è l'unico al momento. No, comunque non ho toccato l'argomento, ti stavo dicendo tutt'altra cosa, forse mi hai capito male. Allora ho capito male, sì, probabilmente ho capito male, non so cosa dirti. Ti stavo dicendo che ho parlato in continente dalla vettura. Sì, ma quello non è una novità perché ci parliamo sempre, quando c'è propagazione con piccole potenze, dalla vettura e anche dal portatile si può parlare, senza grosse antenne, senza niente, basta che ci sia una propagazione buona, è facile, quando c'è propagazione è facile, è più facile parlare fuori che parlare in città tante volte. È vero, ogni canale che giravo c'era gente che parlava in italiano, e praticamente non li avevo mai sentiti, la prima volta, ogni canale che giravo c'era gente che parlava in italiano. Sì, beh certo, non c'è problema, ce ne sono di tutti i tipi, si parla per tutto, abbiamo avuto occasione anche di parlare addirittura dall'altra parte della terra, addirittura in America, io sono riuscito a parlare anche in Florida, la Florida se non vado errato è in America, per cui è un bel salto dalla Sardegna alla Florida, e non solo in Florida ma anche Portogallo e tanti altri posti, tutti posti lontanissimi che abbiamo avuto modo di sentire, ma non una volta, no. E nel corso degli anni abbiamo sentito centinaia di volte. Vai Giova. Beh, tu in 50 anni di carriera lo credo bene che l'avrei sentito più di una volta. Appunto, perciò non ci meraviglia più di tanto, anzi è già un'impresa quando riusciamo a farci sentire in lontananza nei giorni che non c'è la propagazione, perché la propagazione aiuta tutti, aiuta ed è facile per tutti, anche chi non è attrezzato come me ad esempio, che io non ho attrezzature, sono praticamente con una stazione abbastanza misera, niente di particolare, Giova. E anch'io non ti credere, questo Midland 7001 che avrà 20 anni credo, è un lineare che tra l'altro non funziona neanche. Ma io quello non ce l'ho nemmeno, non ho mai avuto lineare, no, e non ho nemmeno intenzione di averne, no, non c'è problema, non ho avuto mai ambizioni di potenza, sono andato sempre con la regola del coso, delle poste, cioè con bassa potenza e con microfoni accettabili senza nessun problema, e con baracchini soprattutto omologati eccetera eccetera, tutto lì, vai ancora Giova. Però che è bello quando c'hai un aiuto che ti spingi un po' più lontano, dai, diciamoci la verità, Giova. Sì Giova, ma indubbiamente è una comunità, non ci sono dubbi, però parto sempre dall'idea che la soddisfazione maggiore è quella di farsi ascoltare in lontananza senza grossi mezzi, è quella la soddisfazione, perché chi ha i mezzi è facile, per chi ha i mezzi, se uno ha degli amplificatori e delle radio potenti eccetera, è chiaro che è facile arrivare dall'altra parte della terra, ma per arrivarci uguali. E quella è la soddisfazione del CB. Io la penso così, poi ognuno chiaramente la pensa a modo suo e io rispetto il pensiero di chiunque, ci mancherebbe. Vai, Giova. Fra, io posso essere d'accordo fino a un certo punto con te, però devi sempre aspettare quelle favorevoli circostanze, tipo la propagazione, per uscire così lontano, altrimenti sei limitato alle zone limitrofe. Sì, è così. Beh, è ovvio, deve aspettare la propagazione per poter andare, per attraversare il mare, dai, diciamolo così, mettiamolo in questo modo, per poter attraversare il mare deve aspettare la propagazione. Poi per farsi ascoltare nel circondario di Sassari e zone limitrofe, va bene anche con le piccolissime potenze, non c'è problema. Quindi è considerato che ci sono da 50 anni, mi hanno sempre ascoltato e continuerò a farmi ascoltare ugualmente. Eppure chi non mi ascolta, pazienza, non ci posso fare niente. È così Giova. Mi è sembrato di aver sentito un break, Giova. Avanti break, eh? Ehi capo, buonasera, ciao Giulio, ciao Giovanni, ben ascoltati. Avanti Giulio. Ok, ciao Franco, ben arrivato. Sono in compagnia di Giovanni, come avrei ascoltato, poc'anzi c'era Natalino, c'era anche Gianfranco, ma Gianfranco ci ha sentato e anche Natalino, non lo so se rientrano, riprendi Franco. Ehi capo, dai. No, non l'ho ascoltato poco fa, sono entrato, l'ho acceso adesso, ho acceso. Sì, ho sentito Giovanni, sì, Giovanni mi arriva benissimo anche qua, mi arriva. Comunque Giovanni, non stai modulando con Gianfranco, stai modulando con Giulio. Grazie per la correzione, ciao Franco. Capo, dai. No, perché sono arrivato un po' a ascoltarti e sentivo sempre Gianfra, Giovato, ma magari pensa che sia con Gianfranco, non con Giulio. Avanti giù. Ok, vabbè, un nome vale l'altro, non c'è problema. Stavamo facendo ping pong praticamente, non c'è problema, va bene lo stesso. Mi piace anche il nome Gianfranco, per cui me lo possono anche appioppare, no, non c'è problema. Chiamarmi Giulio, chiamarmi Gianfranco per me va sempre bene, è un nome rispettabilissimo, per cui va bene così. Vai Giova. Ecco perché non mi hai corretto, perché ti piace anche quel nome. Mi piace, sì, perché no, ci mancherebbe, potete vedere. Tutti i nomi sono belli, tutti indistintamente, non ce ne sono nomi superiori ad un altro, sono tutti belli, tutti. Per cui va bene così. Avanti Franco. Ecco. I nomi. Brutti non è che ce ne siano tanti, qualcuno già c'è, però teniamo più a quello che ci abbiamo. Beto. Avanti, Beto. Sì, scusate di nuovo. Giulio, questo è il DAC, sempre col Tarne più 3. Va bene anche questa? Sì, va benissimo, non c'è molta differenza da quello di poc'anzi, quasi niente, perlomeno se una differenza c'è, ma è proprio minima. Ma va benissimo, non c'è problema, Ocla. No, vabbè, il microfono è lo stesso, non c'è il beep, nel Galaxy c'era il beep. Questo è il Mark 10. Ciao Franco, buonasera, ben ascoltato. Mi senti bene con questa radio? Sì, sì, ti ascolto benissimo. Va bene, la modulazione 5. È abbastanza buona. Cappa, vabbè, quindi abbiamo giudicato, le radio che ci sono funzionano e vanno bene, quindi si possono usare, adesso la sto facendo scaldare nel frattempo perché questa c'ha lo stadio finale a valvole, quindi ha bisogno di erogare un po' più di potenza, adesso sono 8 watt, sta salendo piano piano, 10, 12, va bene, grazie Franco, riprendi e fai girare per Giovanni. E allora quando scalda bene uscirà ancora meglio, uscirà, perché qua quando c'è lo stadio finale a valvole poi più scalda e più pompa, più bene. Allora Giovanni. Comunque Claudio, radio qua lo sento sempre molto bene. Ma sto Giova, sì, senza radio, sollevo la voce. Fa male un po' la bocca. Giova, sei basso, Io lo sento basso di radio, non so voi, boh, il segnale è buono, quasi 9. A me è arrivato di 9, però la radio adesso si è abbassata, poco fa era buona e adesso si è di nuovo abbassata. Non ho toccato niente, è sempre uguale come prima. Vabbè, alza la voce allora, solleva la voce, grida. Le fa male la bocca. Ah, va bene, allora va bene, dai. Ok, avanti Giulio, riprendi, io rimango un attimo in stand-by che metto a posto qua. Comunque è confermato che ambedue le radio con lo stesso microfono va benissimo, eh. A dopo, riprendi Giulio. Ok, sì, va benissimo, non c'è problema. La radio è sempre potentissima, è molto, molto buona, no? Niente da dire, niente da dire, te l'avrei detto, se tu non me lo chiedi, quando la radio non è buona, cioè stai tranquilla che te lo dico, no? Non c'è problema, perché so quali sono le sue finalità di voce, per cui quando la sento diversa, allora è mio dovere fatelo sapere, niente di più. Avanti Franco. Caspita, è vero, perché qualsiasi radio che usa, sì, cambia qualcosina di timbrica, però fesserie, però la modulazione è sempre forte. Grazie Franco, sei un amico, ti devo un caffè. Ehi, Radio Vici, viva dentro questa, non c'ero neanche 18 anni io quando è uscita questa radio, questo Mark 10. Quindi se sta funzionando è perché è tenuta bene, perché è sempre stata fatta la manutenzione, altrimenti sarebbe già andata allo sfascio. Il DAX, vabbè, il Galaxy è nuova, quindi. Però volevo capire che microfono lasciarsi fisso, in modo che so qual è il microfono che va bene per tutte e due, e ogni tanto magari le posso anche usare, capito? Giusto per farle andare, niente di che, poi già ci abbiamo le altre. Ok, grazie di nuovo, il cambio per Giulio, ci sentiamo dopo, che metto a posto. Se ti dico che anche da me va bene, me lo offro il caffè. Oi, Benito, ciao carissimo, certo che te lo offro il caffè. Ho anche il piacere di vederti, c'è buona vita che non ti vengo. Buonasera a tutti, Benito la tua. Come vedi la tua voce è inconfondibile, quindi io ti ho riconosciuto subito. Un abbraccio, Benì, metto a posto e poi ci sentiamo con l'altra radio. Avanti Giulio. Ok, d'accordo, ciao Benì, ben arrivato dopo un bel po' di tempo. Va bene che anch'io non è che sono molto presente in quest'ultimo periodo, perlomeno in questi ultimi mesi, però diciamo che di tanto in tanto all'ascolto faccio ascolto tutte le serie, magari accendo, non so nemmeno ascoltando, ci giro attorno perché sto facendo altre cose a casa, però la radio è sempre accesa, no, non c'è problema, se l'ascolto la tengo sempre tutti i giorni, mattina e sera è sempre accesa. Avanti Giovanni. E giù, lasciami riposare un po' che fa male la bocca. Ok, d'accordo Giovanni, alle prossime, dai. Avanti Franco. Ehi capo, ciao Benito, ben ascoltato dopo tanto. E allora? Oh Franco. Allora, così è. Stiamo provando di stare sempre in frequenza, non ce la facciamo. Piano piano. Avanti Giulio. Ok. E così è. Vabbè, vieni, anche tu non sei molto presente, perché ripeto, ma io meno di te, più o meno, possiamo equivalerci in fatto di presenza forse. Magari li ascolto e ci sono sempre. Ma le volte accende non ascolto nemmeno, perché ci giro per la casa e ho cose da fare, e anche perché mi distraggo in altri modi, magari ho anche il volume abbassato, per cui tante volte non sento nemmeno. Accendo per far scaldare, niente di più, quindi riprendi. Positivo, già si sente che sei con un baracchinetto, e tu di solito mi arrivavi 9-9-10 qua. Sì, sto usando un watt appena, un baracchino con un watt di potenza e con un microfono palmare di quelli normalissimi, e tra l'altro anche ridotto come volume di amplificazione del microfono, perché un microfono dinamico non è amplificato ma è dinamico, ma è a metà.